4 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli. Mi scuso con gli ascoltatori che già si aspettavano Alessandro Milan, sono già arrivati dei messaggi WhatsApp. È una sostituzione eccezionale. Alessandro torna lunedì, quindi ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Se volete mandare dei messaggi al 349-238-6666, sapete, il SMS o anche WhatsApp, il mio account Twitter Giulia_Crivelli, e anche lì insomma cerco di rispondere a tutti. Oggi abbiamo due ospiti, come sempre due ospiti, però non quelli, insomma due ospiti diversi da quelli di ieri, e sono Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, e Angelo Maria Perrino, fondatore e direttore di affariitaliani.it. Ce l'avamo sentiti in agosto, quando per qualche giorno appunto avevo, forse all'inizio di settembre, insomma avevo sostituito Alessandro, e quindi sono felice di ritrovarli. E magari la prima cosa che chiedo a Carla Rocchi, anzi prima di tutto le do il buongiorno. Buongiorno cara. La prima cosa che ti chiedo è passato appunto più di un mese, oggi i giornali sono ricchissimi dei soliti aggiornamenti sulle posizioni per il sì e per il no, quindi che idea ti sei fatta insomma di tutta questa campagna che prosegue e prosegue anche con toni sempre più aspri e con tutte le divisioni tra i due schieramenti che sappiamo? Ma non ci voleva il terremoto per farci capire come questa cosa, questa campagna sia stata gonfiata più di quanto il contenuto stesso non richieda. Cioè, in altre parole, si parla di questo, si parla sempre di sì e di no, è diventato stucchevole, siamo tutti piuttosto stanchi, come posso dire, ci si mette un'enfasi che non è giustificata secondo me. Il paese non ha bisogno, non è una priorità del paese questa del cambio delle regole, del cambio istituzionale, non lo è, e questo fatto di dire se non c'è questo siamo morti, se non accade questo siamo morti, secondo me le persone sono un po', poi confrontato con gli eventi più recenti del terremoto, questa cosa al confronto stride, riprende certo. Il tuo profilo un po', come devo dire, contenuto. Va, sentiamo, guarda, perché proprio ieri di nuovo Renzi, che ovviamente in tutti gli appuntamenti che ha in questi giorni torna sul referendum, sentiamo cosa ha detto ieri tornando sul tema dell'unicità di questo nostro bicameralismo non più definito perfetto, come veniva definito all'inizio della campagna, ma adesso più correttamente paritario. Sentiamolo. Di superare il bicameralismo paritario. Cos'è il bicameralismo paritario? Che soltanto in Italia, per dare la fiducia al governo, bisogna avere la fiducia della Camera e anche la fiducia del Senato. Ecco, Antangelo Maria Perrino invece appunto volevo fare un po' la stessa domanda. È passato del tempo da quando ci siamo sentiti, la campagna è andata avanti, c'è stata la tragedia dell'ennesimo terremoto nel centro Italia, che idea ti sei fatto di questa, della contraddizione che c'è un po' appunto dal mettere una priorità sul referendum e mischiarla spesso con la priorità vera che dovrebbe essere in questo momento quella di aiutare le zone terremotate? Eccomi, sì, buongiorno. Grazie per l'invito Giulia e complimenti per la tua conduzione. Io ho la sensazione che strida moltissimo, cioè vedo le immagini di questi poveri fratelli per strada, vedo il centro dell'Italia, l'Italia spaccata con un centro paralizzato da queste vicende naturali a cui si aggiungono peraltro, non dimentichiamolo mai, le colpe dell'uomo. In termini di ritardi, di mancata prevenzione, eccetera, eccetera, tutte cose che conosciamo e che ricordiamo all'indomani di ogni terremoto. E a fronte di questo vedo una classe politica che, anziché unirsi per questa emergenza grave, battibecca con toni spesso sopra le righe, intorno a un tema che in realtà non interessa a nessuno, che non è vissuto come prioritario, e che ci sta portando a un referendum molto pasticciato, a una riforma incompleta, che contiene dei principi positivi di semplificazione, di velocizzazione del sistema delle decisioni, ma in realtà non le realizza, perché elimina un vecchio Senato ma ne reintroduce uno nuovo piuttosto pasticciato. sposta competenze dalle regioni al centro, mettendo le lancette all'indietro. Si era invece costruito un sistema di decentramento dei poteri proprio per andare incontro ai cittadini, avvicinarsi ai cittadini, invece macchina indietro, si torna a mettere tutto nelle mani di Roma, che è un luogo che di danni ne ha già fatti tanti. E quindi la stessa Boschi poi peraltro aveva detto, fosse stato per me la legge sarebbe stata ben diversa. Ecco. Dunque, e questo già appunto fa capire, insomma, è un, non dico che la ministra Boschi non ci abbia messo dell'impegno, però sconfessare così una legge che porta la propria firma, insomma, vengono in mente altri illustri, più o meno illustri precedenti, tipo il famoso Calderoli e la definizione di porcellum della sua stessa legge. È un pasticcio e non capisco perché Renzi, che è veloce e intelligentissimo, non abbia colto al balzo la proposta di Alfano e non abbia rimandato magari sine die questo referendum che, ripeto, non interessa, non convincerà nessuno. Ecco, sentiamo. Realizzerà percentuale di astensione maggiore che in passato, eccetera, eccetera. Sentiamo un'altra esponente del PD, la parlamentare Bonafè, che tra l'altro è un europarlamentare, quindi io resto sempre un po' così sorpresa quando si prendono la responsabilità di parlare di questioni molto italiane, quando poi sono in realtà dei parlamentari europei e li si vede anche spesso in televisione, ma questo è una cosa che appunto mi colpisce molto. Ma sentiamo l'onorevole Bonafè, onorevole al Parlamento europeo, che torna anche lei sul tema del referendum. Questo è un referendum di pancia, di un paese emotivo che vuole dire o sì o no, o bianco o nero, cioè è sbagliato. Ma vanno a dire un autotrasportatore che deve portare un trasporto eccezionale dalla Puglia a Milano, che deve chiedere 5 autorizzazioni diverse? Ma non cambia niente, ma come non cambia niente? Ma come non cambia niente? Lasciamo adesso parlare alla Bonafè. Perché ci sono delle questioni concrete che questo referendum va a risolvere, non è filosofia. Ecco, per par condicio però vi faccio sentire anche un autorevole esponente del no, che è Ciriaco De Mita. Naturalmente tutti lo ricordiamo come uno dei più importanti esponenti della Prima Repubblica. Ha avuto un duello televisivo con Renzi, è chiarissima la sua posizione per il no alla riforma costituzionale. Sentiamolo, perché ieri ha di nuovo attaccato Renzi. Credo che sia irrecuperabile, perché ha una tale consapevolezza di sé che non vede limiti alla sua arroganza. Carla, sei d'accordo? C'è qualche cosa di irrecuperabile in Renzi? La sua ostentata sicurezza dà così fastidio e può sembrare addirittura appunto arroganza? Ma io credo che si debba guardare agli effetti. Cioè, questo è come se una persona ammalata, una persona con la febbre, si vedesse offrire come rimedio una mentina. Cioè, questo paese non ha come priorità il cambio istituzionale, non ce l'ha, perché qualunque tipo di legge viene reificata dalla qualità dei suoi protagonisti politici. Se in questo paese qualcosa ci sarebbe da cambiare, proprio la qualità dei protagonisti politici che non si vogliono mettere in sintonia con i cittadini. Ma io mi domando con quale senso di realtà si può pensare che in Italia oggi le persone si sveglino, in questo momento si vadano al lavoro, si mettano in macchina, si mettano in cammino dicendo il problema della mia vita è il bicameralismo perfetto e imperfetto. Ma come si fa a non capire questo? Ma in realtà ormai la classe politica tutta si è infilata in questo tunnel autoreferenziale e non può venirne fuori, non può, perché l'unico modo dignitoso di venirne fuori sarebbe quello di astenersi da una cosa. Guardate che questa roba già faceva un po' impressione in tempi normali, ma confrontata con il terremoto, quando si sente un sindaco che dice io dovevo puntellare una chiesa e non sono riuscito a farlo in 2 mesi perché i permessi non me li danno, perché l'iter è sconvolgente, e questo sindaco secondo voi ha in testa il bicameralismo, ma cosa pensate che gliene importi? Difatti io penso questo, che il tempo non è, il fatto di avere rimandato nel tempo questo appuntamento è stata secondo me una, come posso dire, un tentativo, una furbizia, non lo so che cosa, ma il tempo lavora contro, perché la gente ormai si è seccata, si è stufata, e quando vede queste persone impegnate in questi dibattiti, io guardate non voglio dire né sì né no, perché perché io come persona ho un'idea ben chiara, io presiedo un'associazione e quindi rispetto, come posso dire, un dato di neutralità come mi impone il mio statuto, ma sono veramente stanca e lo trovo stucchevole continuare a dibattere su una cosa di cui non interessa niente a nessuno, è perfino maleducata come posizione. Ecco, Angelo Maria Perrino, penso che appunto tu l'hai spiegato anche prima, tu invece vuoi fare una dichiarazione chiara su come voterai o preferisci anche tu lasciare? Anch'io Affari Italiani è da sempre al di sopra delle parti, diciamo, non siamo schierati dall'inizio né di qua né di là, abbiamo detto né di destra né di sinistra, ma avanti, e quindi come direttore di giornale devo essere neutrale. Come Angelo Perrino dico che ci sono delle buone ragioni a favore del no, ma anche delle buone ragioni a favore del sì, quindi la decisione è molto difficile. Forse alla fine mi piacerebbe dare comunque un segno di cambiamento, perché anche se, ripeto, la riforma è molto pasticciata, però se vince il no è come un messaggio di stiamo fermi, è bene lo status quo, ci sta bene l'Italia così com'è. Ecco, questo temo che subentri una sorta di stasi, palude intorno a questo feticcio della Costituzione. No, ma infatti è un grande argomento questo di chi magari anche, diciamo, tappandosi il naso dichiara di votare sì, che comunque è un segnale di cambiamento. C'è qualche ascoltatore che ci accusa di populismo, io credo che invece insomma stiamo cercando di usare il buon senso più che il populismo su questa valutazione di una... tapparci il naso? Ma perché uno che viene chiamato, non richiesto, a fare una cosa che a noi non serve, a muoverci, andare a votare una cosa, una riforma che non ce lo dimentichiamo mai, porta in Parlamento quella parte della classe politica che ha dato nel tempo i peggiori risultati, cioè noi siamo tutti chiamati a muoverci, soldi che si spendono, tempo che si perde, attenzione che non c'è sui problemi reali, e io devo fare pure sto favore a qualcuno di muovermi e andare a votare una cosa che non mi convince e mi devo tappare il naso. Ma se io faccio tanto che arrivo alle urne, voto una cosa che sia in sintonia col mio sentire. Ecco, e questa cosa del tapparsi il naso è la roba altro che di Prima Repubblica. Se il consenso a una riforma viene chiesto in virtù del tapparsi il naso, guardate che ritorniamo indietro ai tempi, ai primi, ai certo, tempi la famosa più dichiarazione opaco di Montanelli, mi tappo il naso, certo. Ma invece sul rimandarlo, la tua opinione, che poi probabilmente non succederà, però in effetti ci sono tantissimi italiani che molto probabilmente non potranno votare, sono proprio i terremotati, che sicuramente non è la loro priorità, però è un fatto che difficilmente... Guardi, questo diciamo che i terremotati non possano votare è soltanto, come posso dire, un vantaggio per la parte proponente, perché lei immagini il terremotato che in questo momento che noi parliamo è lì al freddo e non vede futuro per sé, che però dice... Fatemi correre a votare al seggio, perché per me la priorità è sapere che al Senato ci arrivano non delle persone elette, ma delle persone nominate. Ma io non capisco come non si colga il dato di ridicolo di tutto questo. Che gli italiani, secondo me, si stanno seccando. Si stanno seccando perché vengono presi per il naso. Angelo, ci fermiamo. Sicuramente ti. Subito, solo la pausa per il traffico e poi appunto puoi tornare anche tu sulla questione. Un minuto solo per appunto aggiornarci sul traffico. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. '24 mattino. Signor Benigni, come la va? No, fermi, io vi aspettavo perché guardi, ho detto, ero lì che potevo, ho visto i vigili, no? Ho detto, sai che faccio? Faccio un bel sorpasso, ho suonato i clacson per farmi vedere, perché volevo il tappino. Non ci posso credere. Ho fatto apposta. Ma potevo avvisarmi, signor Benigni? Allora, sono venuto io. Scherzo quello della patente, me l'hanno ridata per il tappino. Ma io la ringrazio. Ma il giorno del suo compleanno gli hanno tolto la patente e noi le diamo il tappino. Con questo era come se avessi la patente, tra l'altro, ma io l'abbraccio. Ecco il nostro Benigni di Benigni, Benignaccio potremmo dire. Tra l'altro l'abbiamo anche scelto perché sappiamo che c'è stata molta polemica sul fatto che per anni ha parlato della nostra stupenda, bellissima Costituzione, poi però ha dichiarato che voterà sì al referendum, cioè la vorrà anche lui, si schiererà con chi la vuole emendare. Quindi dicevamo, Angelo Maria Perrini, tu cosa pensi di questo possibile ma probabilmente non fattibile rinvio? Io non sono d'accordo nel dire che i temi di cui dobbiamo discutere e poi votare al referendum non siano prioritari. Io contesto le soluzioni, come ho detto prima, ma in realtà il tema di una democrazia decidente, diciamo così, per usare un neologismo, è prioritario in modo assoluto. Anzi, forse è proprio la madre di tutte le questioni in Italia, perché abbiamo un Parlamento ingolfato, bloccato da regolamenti obsoleti, questo doppio passaggio su molte leggi è disastroso e questo fa sì che il Paese non si muova. Ecco. Quindi questo è certamente un tema prioritario, intorno al quale poi succedono tutte le cose, non si decide sui terremoti, non si decide sulle misure economiche, non si decide sulle tasse, perché infatti, il potere, molti ascoltatori, il potere legislativo è paralizzato, per cui abbiamo poi un esecutivo che cerca di fare, ma deve andare avanti a decreti legge, con il che strappando dal punto di vista delle regole, quindi che ci si dovesse applicare a una grande riforma ce lo diciamo da almeno 20 anni. Sì, forse anche di più. Tra l'altro appunto anche alcuni ascoltatori dicono no, guardate che in realtà la cosa ci interessa. Volevo cambiare un attimo argomento perché tanti altri ci dicono contribuite, dite che si parla troppo del referendum però vi rendete colpevoli anche voi di questo dibattito un po' gonfiato. E vabbè, ci sono tanti ovviamente sempre opinioni, tantissime opinioni diverse, ma volevo... perché io adoro la rubrica di Alessandro che trovo geniale, lo psicologo di D'Alema, e siccome penso che a voi l'abbia già chiesto, io ho pensato solo per oggi, eccezionalmente, per non tentare inutilmente di scopiazzare Alessandro, di fare lo psicologo di Bersani. E quindi sentiamo la nostra musichetta di In Treatment sullo sfondo, ma sentiamo una delle cose che ha detto ieri Bersani. Se vince il sì, come fa a restare? Ma... quando si votò Monarchia Repubblica, tutti i democristiani votarono Repubblica, neanche tutti i comunisti, forse sono testimone io di una testimonianza, votarono Repubblica. Il giorno dopo erano tutti i democristiani e tutti i comunisti. I referendum sono fatti così. Bersani resta lì, nonostante la mucca. Ma non mi porto via nessuno da lì. Ecco, e poi ha anche aggiunto un'altra chicca che adesso sentiamo, perché non vuole assolutamente che gli si dia del traditore. Allora, io non ecco, però non mi si dia del traditore a me perché li sbrano davvero, E vabbè, li sbrana, lui è sempre, insomma, sappiamo che Bersani è forse nella sua imitazione di Crozza mette in evidenza tutto questo folklore che spesso mette nelle cose che dice. Ma per me c'è qualche cosa appunto anche di psicologico, ma magari voi non siete d'accordo, non è il caso di aprire una sessione appunto per Bersani come ha fatto Alessandro per D'Alema. Carla, tu cosa pensi? Ma io trovo questo, che qualunque opinione in questo momento ha un suo peso, perché non c'è uno solo di questi protagonisti che non incarni un sentire comune. Dico una cosa, io ho trovato poco elegante quando è stato rimproverato a Bersani di avere votato questa legge. In realtà Bersani ha votato le fiducie. Un conto è votare il contenuto di una legge, un conto è votare la fiducia al governo, che è è una cosa molto più strangolatoria, molto più, come devo dire, obbligata. Il contrario di questo sarebbe percepito come un vero strappo. Quindi, secondo me, guardate, io questi palazzi li ho visti anche da dentro, e la vera riforma, quella utile, quella di cui ci sarebbe stato bisogno, sarebbe stato il Senato viene abolito, punto. Sarebbe stato un plebiscito nazionale. Tutti esatto. Avrebbero detto basta una Camera, ma questo arrampicarsi sugli specchi, per cui abolito ma sì ma no, e la gente va in Senato ma sì ma no, e chi ci va è Dio ci liberi. è una roba proprio italiana, italiana, no, incredibilmente tra italiana, e anche per questo stucchevole. Io trovo soltanto questo termine che disomiglia. Tra l'altro questo tema del, appunto, usare la fiducia è un tema che potremmo trattare anche su altre questioni, perché è chiaro che, appunto, se uno mette la fiducia su un voto, c'è in gioco molto più di quello che poi si vota in quel momento, c'è in gioco il governo. Quindi uno può, per tornare all'espressione che non piace a Carla, tapparsi il naso e votare la fiducia per evitare qualcosa di peggio. Ma dopo non si può rimproverare chi ha dato la fiducia di dire tu l'hai votato convintamente. No, io ho dato la fiducia, certo, perché ero preso per il collo. Ma insomma, voglio dire, non è uno spettacolo elegante, guardate, da qualunque lato lo si guardi non è elegante. Ecco, Angelo Maria, tu di questo atteggiamento di Bersani, che diventa sempre più polemico, anche se ribadisce, anche ieri ha detto io non uscirei dal PD, il governo non dovrebbe cadere anche se vincesse il no, però come ti sembrano, insomma, queste posizioni così? Io manderei Bersani a pettinare le bambole, ecco. Perché sebbene egli abbia il copyright di questa espressione, è ora è proprio vero che lui sta pettinando bambole e smacchiando giaguari, cioè il signor Tentenna non si capisce cosa abbia in testa. In questo senso il suo padre politico D'Alema ha dato una lezione di leaderismo, cioè ha detto no e gira dicendo no con chiarezza. Bersani è stato un grande riformista e innovatore all'epoca in cui qualche decennio fa era giovane ministro dell'industria e introdusse in Italia una grande ventata di modernità, con le liberalizzazioni, eccetera. Certo. Dopodiché si è perso e adesso oscilla tra un complesso di Edipo, per usare la metafora dei complessi, verso la ditta, come dice, di cui vorrebbe liberarsi nelle sue incrostazioni del passato, e un legame con le tradizioni che lo blocca, ristretto tra D'Alema da una parte, Cuperlo e Renzi dall'altra. Mi sembra un uomo, insomma, un po', forse come si disse di Gassman, con un grande futuro dietro le spalle. Quindi, insomma, sì, a me fa un po' impressione, appunto, che anziché anche loro, Bersani e anche lo stesso D'Alema, entrare veramente un po' nel merito, spesso ci si pronuncia contro la posizione dell'ufficiale del PD, così, un po' per slogan. Che continua il congresso del PD e noi stiamo pagando da anni il prezzo di queste loro divisioni. Va bene, io comunque credo che siamo tutti d'accordo. Tu prima hai citato il problema dell'astensionismo, si voti sì o si voti no, credo che sia comunque importante, anche se ha ragione anche Carla, sicuramente ci sono altre priorità, ma dato che al referendum si può votare, è un nostro diritto dovere, andiamo a votare, cerchiamo di limitare l'astensionismo, che non è mai un bel segnale in democrazia. Purtroppo ci si dica che è un nostro piacere. D'accordo, grazie a Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, grazie a Angelo Maria Fernino, fondatore e direttore di affariitaliani.it. Io vi auguro a entrambi un buon venerdì e un buon weekend, e noi ci fermiamo un attimo per il GR, ci troviamo dopo per la lettura dei giornali. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta 1, 2, 3. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. E appunto deluderò tutti i super affezionati ascoltatori di Alessandro e del suo modo di fare la rassegna stampa. E io cercherò, insomma, di fare del mio meglio, come sempre. E oggi è uno di quei giorni in cui i giornali hanno aperture molto simili. Come avete sentito nel GR, la notizia di ieri, importante non solo dal punto di vista economico per noi europei e non solo,